24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati, eccoci qua, c'è anche una mail alla quale potete scriverci, 24mattino@radio24.it, è il momento a quest'ora dell'economia. Soldi e dintorni. Ritrovo allora con piacere Deborah Rosciani, buongiorno Deborah. Ricambio il piacere, grazie, buona giornata a tutti. E allora, poi introduciamo l'argomento, io l'ho già detto, parliamo di pensioni con un taglio particolare che tra poco vedremo. Prima uno sguardo alle borse, allora ieri è stato il giorno di Obama, ormai lo sentiamo in CR24. A Wall Street non si sono sentiti tanti tappi di champagne volare, no? Per niente, pensa che è stato quello di ieri per la borsa, il peggior Inauguration Day dal 1963, cioè da quando è stato assassinato John Kennedy per gli indici americani. Però, secondo quello che ho potuto capire, la borsa non ha tanto guardato al discorso del neo presidente e al suo giuramento, quanto invece ancora lo stato di salute del settore finanziario americano e internazionale, estremamente precario, ogni giorno sempre di più, per cui gli indici sono crollati fra il 4 e il 5%. Quindi questa è la situazione che, tra l'altro, il presidente ha già detto che vorrà affrontare molto chiaramente. E allora, pensioni, non ne parliamo sul fronte del dibattito politico. Oggi c'è un'interessante intervista a Walter Veltroni sul Sole 24 Ore che dice riformiamo le pensioni con delle proposte, oppure il dibattito innalzare e equiparare l'età per andare in pensione per i dipendenti pubblici tra uomini e donne, come il governo è intenzionato a fare. Parliamo invece di previdenza complementare. Anche se poi non è che, come dire, due binari viaggino completamente separate, anzi si intrecciano evidentemente. Allora, ti ricordi Alessandro, tu 2 anni fa, quando esattamente in questo periodo la nostra azienda ci ha inviato un documento, è successo a noi come è successo a molti lavoratori del settore privato, un documento nel quale ci ha chiesto che cosa vuoi fare del tuo TFR che sta maturando? E come no, sì. Te lo ricordi? Ti ricordo anche che cosa hai fatto? Non alziamo il velo sulla tua scelta? No, il panico innanzitutto mi ha preso molti lavoratori erano italiani che si sono trovati di fronte a questa cosa, a questa scelta, cosa fare e del poi nostro come tutti TFR? Gli italiani ho lasciato tutto così, perché come molti italiani ho lasciato così senza lasciato comunque la strada aperta ad una scelta comunque del futuro eventualmente, perché poi tra l'altro lasciare il TFR in azienda significa eventualmente poter anche fare una scelta per un fondo di previdenza complementare in futuro. Detto questo, poi fare tu le tue scelte. Entrava in quel periodo 2 anni fa nel vivo la riforma del TFR, come dicevamo, che ha fatto riflettere, come è successo ad Alessandro e a noi tutti, molti lavoratori chiamati a quella scelta. Molti l'hanno fatta attivamente, altri no, facendo così dirottare il TFR, vi ricordate il famoso meccanismo, il principio del silenzio assenso, facendo dirottare appunto il TFR nel fondo di categoria. Altri hanno lasciato le cose come stavano, quindi il TFR è stato mantenuto in azienda rimandando al futuro la propria scelta. Altri lavoratori probabilmente stanno ancora riflettendo su quello che è il caso di fare. È un dibattito assolutamente aperto che oggi magari entra nel vivo perché c'è un anniversario importante che si celebra a Milano, l'anniversario del fondo pensione più grande italiano, Ecometa, il fondo dei metalmeccanici. Il direttore generale Maurizio Agazzi è con noi questa mattina, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quanti iscritti ha Ecometa, Agazzi? 480.000 è un numero che si è incrementato da quando è partita la riforma del TFR 2 anni fa, oppure è una categoria che comunque aveva questo fondo già da tempo, visto che celebra 10 anni, che è rimasto un po' nel buio e nell'incertezza, come è accaduto a molti lavoratori in questo periodo? No, si è incrementato sicuramente grazie al dibattito scaturito dalla riforma del TFR. 180.000 lavoratori hanno scelto il fondo Cometa a partire dal gennaio del 2007, quindi ci ha consentito questa cosa di arrivare a circa 500.000. Poi ci sono lavoratori che entrano e lavoratori che escono, perché nel fondo si entra ma si esce anche. Perché si va in pensione naturalmente. Perché si va in pensione, perché si interrompe il rapporto di lavoro, perché si cambia contratto, perché si cambia azienda, perché si cambia categoria giuridica. E la platea dei lavoratori è diventata più consapevole verso questa scelta negli ultimi 2 anni, o secondo lei c'è ancora un po' di strada da fare? La previdenza integrativa è decollata in Italia? Ma è sicuramente decollata, si è preso coscienza di una problematica importante, sicuramente c'è da fare cultura ancora previdenziale, e questo viene rilevato anche dalle scelte poi di comparto che i lavoratori fanno, che ancora non dimostrano una scelta consapevole legata all'orizzonte temporale e al bisogno pensionistico. Quindi questo è un tema aperto che riguarda soprattutto chi è nell'incertezza e chi non è ancora in grado di fare una scelta, perché poi la volontà di mantenere il TFR in azienda può presumibilmente essere anche il frutto invece di una consapevolezza sana, no, ragazzi? Assolutamente, va rispettata, anche se probabilmente non è la scelta migliore al di là del momento economico e finanziario, perché il TFR si sa che ha un rendimento garantito, però il bisogno pensionistico è sicuramente superiore a quello che può essere il risultato di un TFR lasciato in azienda. Lei ha centrato un tema assolutamente fondamentale, il momento economico, perché sicuramente chi ha fatto la scelta di recente ed è un po' portato a controllare magari l'andamento, la prestazione del proprio fondo da quando ha fatto la sottoscrizione di questo, il momento economico non è felice, dicevamo, e sicuramente questo lo vediamo da come sono stati anche i rendimenti, no, dei fondi pensione nelle 2008, non sono stati assolutamente brillanti, hanno risentito della congiuntura, hanno risentito dei crolli delle borse degli ultimi 18 mesi, di come è andato anche il mercato obbligazionario, se poi le linee di investimento del fondo sono più prudenti. A chi ha anche un atteggiamento di controllo continuo e monitoraggio verso il fondo pensione, ragazzi, che cosa suggeriamo di fare? Beh, innanzitutto di pensare anche ad altro, nel senso è giusto controllare i costi, è giusto controllare che l'andamento del fondo sia in linea con quelli che sono gli obiettivi pensionistici. Controllare il fondo come se fosse un normale investimento a breve è sbagliato, perché si rischiano scelte sbagliate, panici e situazioni che non sono in linea con quello che è l'obiettivo previdenziale, nel senso che investire in un fondo pensione non significa investire a breve e guardare il risultato a breve, significa verificare se la scelta fatta nel tempo è confacente a quelli che sono i bisogni pensionistici. Dopodiché, ecco, sì. Il puro risultato finanziario va anche integrato dal contributo del datore di lavoro, dal risparmio fiscale, ed è abbastanza dimostrato che anche in questo periodo di crisi chi ha aderito nel 2007, nonostante possa aver scelto anche linee più aggressive, non ha a conti fatti netto in tasca perso assolutamente. Un altro tema aperto è sicuramente quello della reversibilità della scelta, adesso ci arriviamo, però se ne è aperto anche un altro di fronte piuttosto preoccupante negli ultimi mesi, è stato il fallimento di Lehman Brothers, e abbiamo scoperto che alcuni fondi pensione, anche se l'esposizione era estremamente limitata, ma anche alcune casse previdenziali avevano un'esposizione verso questi titoli della banca americana, appunto, che è fallita. C'è stata un'indagine conoscitiva che è stata avviata dalla COVIP, l'organismo di vigilanza sui fondi pensione. Sul fronte degli investimenti, i fondi hanno un'esposizione limitata sui titoli tossici, lo abbiamo detto. Sentiamo che cosa ci ha detto, intervistato qualche settimana fa a Focus Economia, Alberto Brambilla, presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del Welfare. L'analisi che è stata fatta assieme alla Direzione Generale della Previdenza Sociale del Ministero del Lavoro ha dato questi esiti, diciamo, di titoli di difficile recuperabilità, come i titoli delle banche irlandesi oppure i titoli della Lehman, rappresentano nei portafogli circa lo 0,35-0,40 di tutti i portafogli, quindi una cifra che è molto molto in linea con quella che hanno dichiarato anche le compagnie di assicurazione. Siamo, come dire, sufficientemente tranquilli. Va specificato che questo riguarda solo le casse di previdenza privatizzate, perché invece per tutti i fondi pensione di natura sì, complementare, c'è invece in vigore un limite di investimento preciso che non consente l'acquisto di fondi di fondi hedge, di fondi hedge, di strutturati, eccetera, per cui lì dentro abbiamo delle perdite, perché la parte investita in azioni ha subito le perdite dei mercati, ma diciamo che c'era proprio l'impossibilità per legge di investire in titoli pericolosi. Ecco, l'ultima considerazione che volevamo fare, abbiamo solo 10 secondi di tempo, però Maurizio, ragazzi, l'incertezza di molti lavoratori sta nel fatto anche che se dal TFR io vado al fondo pensione non posso più ritornare indietro. So che c'era un'intenzione del governo di intervenire su questo, secondo lei si farà la reversibilità? Ma io continuo a pensare che non sia il problema più grosso, nel senso che tra anticipazione, riscatto per perdita del posto di lavoro, delibera COVID che consente il riscatto parziale in caso di cassa integrazione per 12 mesi, il problema sia molto ridotto. In ogni caso è presumibile che una volta che il sistema è avviato si possa pensare a una possibilità di reversibilità durante la vita, si tratta poi di capire quanto sia utile effettuare questa scelta. E allora, alle 12, Deborah, grazie Maurizio Agazzi, alle 12. Direttore generale di Cometa, che oggi celebra 10 anni del Fondo Pensione, alle 12 a Salvadanaio ci occupiamo di conti di deposito ad alta, ma sempre più bassa, remunerazione. Le 8:33 minuti, rientriamo in diretta, uno sguardo alle ultime notizie. Primo giorno di lavoro per il presidente americano Barack Obama, che ieri ha giurato. Wall Street però non brinda, lo Standard & Poor's ha perso il 5,28%. E Medio Oriente, questa mattina l'esercito israeliano ha completato il ritiro dalla striscia di Gaza, come ha riferito un portavoce militare. Veniamo in Italia, il presidente del Consiglio Berlusconi minimizza sulla crisi, invita a ottimismo, atteggiamento sorprendente per il leader dell'opposizione Veltroni. Oggi l'incontro governo-regioni. Infine il calcio. Stasera due partite dei quarti di finale di Coppa Italia in programma. Sono Inter-Roma e Udinese-Sampdoria. E all'insediamento di Barack Obama e alla situazione economica è dedicato il commento di oggi del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Buongiorno. L'unica a non aver festeggiato l'elezione di Barack Obama è stata Wall Street, che ieri ha perso il 5,3%. Alcuni titoli bancari hanno registrato pesanti cadute, come State Street, considerata fino a qualche giorno fa sicura, che ha lasciato sul terreno il 60%. Bank of America e Citigroup tra il 20% e il 30%. L'ingresso dello Stato negli istituti di credito sembra non essere più una garanzia per gli investitori che si tengono alla larga dalla finanza. Più di 800 miliardi di dollari complessivi di interventi, anche se disordinati, appaiono persino inefficaci. Obama non baderà a spese, non guarderà al deficit, che ormai è superiore all'8% del prodotto lordo, altro che Maastricht, e nemmeno al debito pubblico, che potrebbe raddoppiare avvicinandosi addirittura a livelli italiani. La differenza con gli altri paesi è che una grande potenza può permetterselo, anzi deve permetterselo. Gli americani da anni vivono al di sopra delle proprie possibilità e noi dobbiamo sperare che continuino a farlo, e anche tanto. Grazie, buona giornata. Grazie dunque a Ferruccio De Bortoli, che ritroveremo domani. Staremo a vedere oggi come vanno le borse, ovviamente l'apertura poco dopo le 9 per quel che riguarda l'Europa. Si potrebbe dire dell'Italia paese di santi navigatori e anche di avvocati. Sapete che nell'intera provincia di Roma, nella sola provincia di Roma, c'è un numero di avvocati tanti quanti ce ne sono nell'intera Francia, più o meno. Il numero è quello. Per diventare avvocato bisogna passare l'esame di Stato. Un tempo c'era la cosiddetta via Catanzaro, non lo dico io, basta andare nei siti e nei forum degli avvocati, e questa cosiddetta via Catanzaro è ben esplicitata. È quella dove scoppiò lo scandalo dei temi copiati. Ecco allora che, siccome l'esame è stato riformato, ora è molto duro, ed effettivamente è duro, il 35% di coloro che fanno l'esame in media lo passano, l'esame di Stato, ecco che sembra nata, insomma, da qualche anno e si è diffusa un'altra via, la cosiddetta via spagnola. Perché? Perché in Spagna l'esercizio della professione d'avvocato non è subordinata né allo svolgimento del tirocinio né al superamento di un esame di abilitazione. Allora molti italiani che non passano l'esame in Italia vanno in Spagna, lo passano lì, si fanno omologare il titolo, tornano in Italia e si iscrivono poi negli ordini degli avvocati. Qualcuno storce il naso. Io voglio salutare Veronica, la chiamiamo così, avvocatessa, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Non dico il suo cognome perché so che è uscito e che cosa è successo quando esce il suo cognome. E allora, mi chiamano tuttora in molti, chiaramente con il mio cognome, collegando il mio nome alla mia città, riescono ad avere il numero di casa e mi chiamano per sapere come ho fatto. Perché lei è andata in Spagna? Sì, sì, io già questa via l'ho conclusa da diversi anni. Io sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Madrid da aprile 2005, quindi adesso a breve chiederò di essere iscritta nell'albo degli avvocati. E perché è andata in Spagna? Cos'è, una scorciatoia? Un po' all'italiana? No, non è una scorciatoia, perché non è una strada né più breve né più semplice. Per concludere tutto l'iter ci vogliono circa 2 anni, bisogna sostenere una prova interamente in lingua spagnola, complicata, perché si tratta di una prova su circa 11 materie. A me sono state chieste 11 materie, alle volte chiedono 9 materie. Ho capito, però dice non è una scorciatoia, perché l'ha fatto allora? Perché in Italia ho sostenuto l'esame due volte a Roma, ho aspettato ben 7 mesi per avere il risultato, ed è tanto, perché da dicembre a luglio è un periodo abbastanza lungo per noi giovani che vogliamo comunque lavorare. E non l'ha passato. E non l'ho passato. Sottolineo che io sono laureata alla Sapienza a Roma con 110, con una tesi importante, con un relatore abbastanza importante. Vabbè, allora un po' di scorciatoia lo è, insomma, dire. No, assolutamente, perché alcuni colleghi all'epoca andavano a Catanzaro. A me Catanzaro non mi ha mai interessato, ho trovato molto più curioso imparare comunque un'altra lingua, andare all'estero, conoscere una cultura straniera e fare comunque dei viaggi. Sicuramente oggi diciamo che posso avere, se voglio essere un po' presuntuosa, anche qualche competenza in più, forse. Sì. Diciamo che siamo tanti sul mercato. La lingua sicuramente, ha dovuto imparare lo spagnolo. Sicuramente, sì. Ecco, però che cosa succede? Basta andare su internet e vedere avvocati in Spagna e c'è un elenco di agenzie che organizzano, sì, i pacchetti, sì, tutto compreso, ma anche basta andare sui forum. Noi l'abbiamo fatto ieri, basta andare sui forum e vedere persone disperate, avvocati, sì, che non hanno, sì, passato, sì, l'esame. Sì, sì. Io a dicembre ho ricevuto tantissime telefonate, perché poi una cosa molto strana, a ridosso dell'esame chiamano in molti, sembra che il problema dell'esame poi in questo periodo a dicembre diventi il problema principale per questi giovani. Ma voglio dire, disperati a dire sostanzialmente, per esempio, ho steccato l'orale all'esame, ho deciso di intraprendere la via spagnola, aiutatemi. Ho provato a guardare i programmi delle materie di Alicante, una delle città, mi sembravano abbastanza lunghi, ditemi qual è la città con l'università più facile in Spagna. Potete andare a Valencia, che aria tira lì? Oppure un centinaio di italiani, siamo qui in una città, a Lleida, però non ci vogliono più. Insomma, un po' di scorciatoia lo è, cara avvocato, o no? Perché sennò perché tanti italiani ci vanno? Sicuramente non lo era, perché non era semplice. Adesso, anche perché all'inizio non era difficile anche avere informazioni proprio sull'iter, in quanto non esistevano delle agenzie, su internet si trovavano poche informazioni, ma soprattutto... Adesso c'è tutto. Vendono i viaggi, pacchetti compresi. Addirittura ci sono questi pacchetti compresi, ben venga per loro, perché per me è stato difficile proprio trovare il modo per farla, perché comunque su internet c'erano informazioni all'epoca false, ma io voglio salutare tra l'altro l'avvocato Gaetano Romano, presidente dell'Unione Giovani Avvocati Italiani. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Per carità, nulla di illegale, insomma, sappiamo che anche il ministro dell'istruzione Gelmini ha detto di aver fatto l'esame d'avvocato, credo a Reggio Calabria, insomma, però c'è qualcuno che dice: ma non è il costume della scorciatoia italiana? Lei, avvocato, che dice? Io dico che bisogna guardare alle cause. Perché uno decide di espatriare in Spagna e fare lì l'esame? Perché l'esame qui è veramente difficile. E quindi? Nessuno ha intenzione di spendere soldi e poi di in qualche modo impegnarsi di più che in Italia, perché imparare una lingua non è facile, imparare un nuovo ordinamento non lo è parimenti. Per cui il problema sta nel sistema italiano, che non è stato liberalizzato e porta a queste esagerazioni. Io, come diceva la collega ha molte più capacità a livello comunitario di un avvocato italiano. Sì. Non è che si tratta solo di fare l'esame, si tratta poi di poter utilizzare quelle competenze anche in questo caso per quanto riguarda l'ordinamento giuridico spagnolo, anche in Italia. Per cui, capito, però mi scusi avvocato, prego. Romano, lei sa che tra l'altro, io l'ho detto, c'è qualche ordine, per esempio l'ordine di Udine, so che è abbastanza agguerrito, che non sono molto contenti, cioè quando ci sono questi avvocati che fanno l'iter spagnolo, la via spagnola, tornano in Italia, chiedono l'omologazione, l'iscrizione, cercano di opporsi in tutti i modi, anche con ricorsi al TAR, a dire no, cari miei, avete ottenuto una via magari legale ma diversa che qua non va bene. Tant'è vero che la Spagna dal 2011 vuole bloccare questa, vuole stringere i cordoni di questa via. Intanto, secondo me, un ordine dovrebbe avere interesse ad avere degli avvocati con delle competenze così particolari, perché si internazionalizzano in qualche modo. In secondo ordine, ritengo che se vi sono dei tentativi di bloccare in qualche modo da parte di qualche ordine quest'iter, è pressoché impossibile, perché ormai è certificato, tanti l'hanno fatto, per cui si tratta solo di un problema di tempo. In Spagna dal 2011, ha detto giustamente lei, non vi sarà più questa possibilità, ma solamente perché verrà introdotto il tirocinio. Cioè, in Spagna non esisteva il tirocinio, ecco perché era possibile fare subito l'esame. Lei l'esame dove l'ha fatto, Romano? Io l'ho fatto a Messina. A Messina. E come è andata? Bene, perché l'ha passata. L'anno in cui ho fatto l'esame io mi sembra il 52%. Beh, più alto del 35% attuale di media, insomma. E consideri che in un articolo del Sole 24 Ore è uscita proprio questa percentuale del 35%, sì. Però andando bene a guardare, l'anno prima era di 6 punti percentuali più basso. Quindi... Ma lei dice, visto che è difficile, bisogna trovare, cioè è legittimo come estrema razza trovare un'altra via. Non lo so, cioè voglio dire, non suona un po' come una scappatoia, una furbizia, ma non me lo invento io, ripeto, anche lei andrà sul sito ilpraticante.it a dire affrettatevi, andate in Spagna, dal 2011 non si potrà più. Cioè voglio dire, c'è una corsa un po' questa via spagnola a segnare il fatto che è un modo diverso per diventare avvocati. Un business attorno a questa situazione è una cosa che non, personalmente non condivido, ancorché legittima, però secondo me che dei colleghi in qualche modo acquisiscano nuove competenze andando in Spagna non lo vedo una cosa negativa, proprio perché l'Italia ha un numero di avvocati abbastanza provinciale, sotto questo profilo ha difficoltà ad avere un respiro internazionale, per cui sì. Nell'utile si può fare anche il dilettevole. Ma basta studiare un corso di lingua spagnola per avere... No, consideri che bisogna poi imparare tutto l'ordinamento, diritto penale, vabbè. Diritto civile, procedura civile, non credo sia così lei Veronica si sente, perché qualcuno ha detto veniamo un po' trattati da avvocati di serie B qua in Italia, cioè ci guardano gli avvocati italiani come dire sì, tu sei andata in Spagna. C'è un po' questo atteggiamento? Sì, c'è sicuramente questo atteggiamento, ma a me non importa, insomma, chi se ne frega, voglio dire, ognuno poi è libero. Io non considero di serie B i colleghi che poi sono andati a Catanzaro per prendere il titolo, insomma, non credo assolutamente. Se fosse semplice oggi prendere il titolo in Spagna, allora questi commenti andrebbero anche bene. Vabbè, un po' più semplice dell'Italia lo sarà, se no uno non ci va facendo pacchetti viaggio e affidando alle agenzie, insomma. Le 8:47 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Ora parliamo in qualche modo di viaggi, ma di viaggi di altri tipi, dai viaggi per andare all'estero e diventare avvocati ai viaggi, quelli veri, insomma. Ehi, sei! Turisti, vai da te! No, ambidur! Vabbè, dai, era una delle pubblicità che ha fatto la storia dei viaggi, insomma, turisti fai da te, no, Alpitour, e poi c'era questo c'erano questi turisti che si trovavano in difficoltà, in questo caso nel deserto. Patrizio Roversi, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Celebre viaggiatore, che dobbiamo dire, turisti per caso, che tra l'altro ho scoperto, è una rivista, giuro l'ho scoperto questa mattina. Beh, mi fa piacere che l'abbiate scoperto, sì, è da qualche settimana una rivista nelle edicole. Mea culpa. Allora, perché vogliamo parlare di viaggi, c'è una proposta, tra l'altro fatta da Francesco Rutelli, come capo del COPASIR, cioè il Comitato Parlamentare per la Sicurezza, che controlla, insomma, dei servizi segreti. La proposta è questa: basta turisti fai da te, se uno se ne va all'estero e si mette in difficoltà, magari senza consultare il sito della Farnesina, ora rischierà, certo lo andremo a salvare, lo andremo a prendere, ma gli verrà presentato il conto a casa. Basta questi turisti che si mettono nei guai e poi dobbiamo spendere soldi per andare a riprenderceli. Ora, Roversi, sì. Che è una proposta di legge, si discuterà. Lei che impressione fa l'idea? Dunque, dammi del tu in quanto turista, sì, per caso, bene. Non merito tutta questa attenzione. Dunque, è un una questione complessa, rivendico la possibilità di rispondere in maniera complessa. Allora, prima premessa, io ho avuto il privilegio di visitare il centro di crisi della Farnesina, abbiamo fatto anche uno spot per indurre i turisti quando vanno in zone, diciamo così, relativamente a rischio, a registrarsi presso i siti della Farnesina e quindi in qualche modo a segnalare la propria presenza. Ovviamente le indicazioni della Farnesina vanno prese assolutamente sul serio, certo. Questo mi sembra ovvio. E l'altra cosa è che io personalmente non sono favorevole né ai turisti che vogliono a tutti i costi auto-organizzarsi, quelli che chiamavi fai da te, e nemmeno a quelli che vedono il viaggio come una sorta di prova con se stessi, cioè mettersi alla prova. Lascia stare, fallo in altri contesti, ma quando viaggi vai a visitare delle cose, cerca di avere un contatto tranquillo con la realtà. Detto questo, però, io entrerei nel merito della proposta, con la quale dico subito sono abbastanza in disaccordo, perché capisco, la metafora è orribile, ma per spiegarmi, è come dire che una signora che esce in minigonna può essere cercata se qualcuno la aggredisce. Non è così, cioè viaggiare io credo che comunque sia una cosa positiva, sia alla fine un diritto. Questo sì, però per esempio è bellissimo andare per mare, ma un esempio concreto che viene dato per spiegare questa legge è se uno se ne va su un bello yacht al largo del Corno d'Africa, che è una delle zone più infestate dai pirati, e, ma non so, a largo della Somalia, a largo del Kenya, e non lo sa, insomma, certo andremo a salvarlo, però poi un bel conto a casa. Hai centrato un esempio straordinariamente chiaro. Noi abbiamo fatto un giro del mondo in barca. Per esempio, abbiamo evitato tutto l'interno dell'Indonesia, che è una zona ancora più infestata dai pirati in realtà. Dopodiché però prendi, ecco, il Corno d'Africa al largo di Socotra, è una rotta assolutamente obbligata per chiunque voglia fare il giro del mondo senza poi passare da Cape Town. A quel punto anche noi abbiamo avuto un'aggressione, sia pure maldestra, e quindi ne siamo usciti senza danni, da parte di una barca di malintenzionati, chiamiamoli pirati. Ecco, quello è un punto nevralgico, cioè dire che non devi passare di lì con una barca significa che devi rinunciare a un viaggio come questo, e non è un reato, credo, voler fare il giro del mondo, e soprattutto sono tantissime le barche di tutte le nazionalità che seguono queste rotte. Però è bello, è bella l'idea, non è assolutamente un reato, la rotta è più o meno obbligata se non si vuole fare appunto il giro lunghissimo, esatto. Però che fare effettivamente? Cioè il problema, guarda, è giusto che ce lo si ponga, cioè perché io dovrei pagare dopo aver salvato la vita, per carità? No, ma allora probabilmente bisogna entrare un pochino nel merito. Prendiamo un altro paese dichiarato a rischio, lo Yemen, che io ho visitato e devo dire è uno dei posti più belli del mondo. La realtà è che ci sono all'interno dello Yemen una serie di zone a rischio dove è meglio non andare. Per esempio le zone a nord, al confine con l'Arabia Saudita, dove il confine appunto non è ben definito e dove ci sono bande, diciamo così, di irregolari che hanno degli sconfinamenti. Però se uno va in Yemen con una guida competente, accompagnato nei luoghi giusti, lo Yemen non è un luogo particolarmente a rischio. Certo, attentati ce ne sono stati, ma in Yemen come in moltissimi altri luoghi. Quindi allora si tratta di informare i turisti, sì. Come dire loro, guarda, lascia stare, in certi paesi non ci puoi andare da solo, non puoi improvvisare con quattro. E chi lo fa? E chi lo fa? Almeno lì il pagamento o no? Guarda, non lo so chi lo fa, farlo tutti, dobbiamo farlo noi, che in qualche modo siamo noi tutti, tu e sì, io, sì, stamattina, sì. Informatori turistici. No, questo sì, c'è da dire, se bisogna capire se lì basta poi la lavata di capo, se poi va tutto bene, o se invece nel caso far pagare proprio il conto. Ma il tema è aperto, la proposta verrà discussa nei prossimi giorni. Patrizia Roversi, io ti ringrazio, e ovviamente chissà quando la proposta, se verrà concretizzata, ci ritorneremo. Grazie davvero, Patrizia Roversi, Turisti per Caso, ora lo trovate anche in edicola, davvero l'ho scoperto questa mattina. grazie al mio educolante Luca che espone tutto. E allora ci fermiamo qui con 24 Mattino. Voglio ricordare tra poco Giuliano Ferrara, oggi l'Italia della social card, parliamo di questo. 800 24 00 24 è il numero che potete già comporre per intervenire. Ringrazio Laura Marchesi oggi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e ci ritroviamo domattina.